in primo piano. Buongiorno, buona domenica da Giulia Crivelli. Siamo al nostro consueto appuntamento con i quotidiani italiani della domenica. Non abbiamo tanto tempo, cercherò di segnalarvi l'attualità ma anche gli approfondimenti di cui i quotidiani della domenica sono ricchi con i supplementi culturali. Cominciamo dal Sole 24 Ore, che guarda avanti in due sensi: da una parte al settembre con tutte le scadenze fiscali e da una parte anche a domani, a lunedì, quando riapriranno le borse e si vedrà quali saranno gli effetti questa settimana, dopo una settimana veramente di otto volante, quella appena trascorsa, sulle borse di tutto il mondo. Quindi il titolo principale: riforma per la proroga dei bonus sulla casa, che hanno avuto un grandissimo successo. Il commento su questo è di Giorgio Santilli, il fisco buono che funziona. C'è un schemino che ci riassume le scadenze fiscali di settembre, che quella più importante è quella del 30, che è la scadenza del termine per la voluntary disclosure per quanto riguarda la soprattutto i capitali che rientrano dall'estero. Vi segnalo però, vi dicevo, il guardare avanti a questa settimana, gli articoli li trovate a pagina 4 e 5, borse al test di Cina e volatilità, e vi segnalo anche l'analisi di Adriana Cerretelli, sempre guardando avanti, su quello che dovrebbe fare l'Europa cercando di trarre delle lezioni sia dai negoziati con la Grecia, e anche qui aspettando però le elezioni, il risultato delle elezioni anticipate fissate per il 20 settembre, sia da quello che sta succedendo in Cina. Il titolo dell'analisi: il difficile autunno di un'Europa spompata. Vi leggo la prima parte. Tra la Grecia, che ha un PIL, per dirla con Paul Krugman, grande quanto quello della grande Miami, e la Cina, la seconda economia del mondo, che da sola fa e disfa circa il 40% della crescita globale, l'Europa per anni ha sbagliato priorità e partita, concentrando troppo tempo e attenzione sulla prima a scapito della seconda. Dopo il terremoto dell'11 agosto, la svalutazione dello yuan, lo shock sulle borse e i timori di una forte frenata di Pechino, il risveglio è stato brutale. E vi leggo ancora qualche riga, poi trovate tutto il resto a pagina 10. Le scadenze elettorali saranno incalzanti. 20 settembre la Grecia, con la quasi certa riconferma di Alexis Tsipras, non si sa però con quale maggioranza parlamentare. Il 4 ottobre il Portogallo, il 25 la Polonia con probabile svolta ultraconservatrice, il 20 dicembre la Spagna, dove la tenuta del governo Rajoy non appare affatto scontata. E sempre dalla prima pagina del Sole 24 Ore, come ogni domenica, la lettera al risparmiatore di Vittorio Carlini, che si concentra come sempre su un titolo quotato. Questa settimana è la ST Microelectronics, la scommessa su auto intelligente e internet delle cose, e l'analisi la trovate poi a pagina 12. La prima pagina del Corriere della Sera è invece ha un titolo diverso, perché il Corriere della Sera ha un'intervista che poi trovate a pagine 2 e 3 al premier Renzi di Aldo Cazzullo, e quindi il titolo: l'Italia cresce e il diritto d'asilo ora diventi europeo. Questo quello che estrapola il Sole 24 Ore da questa intervista, di cui vi leggo un paio di domande. Come vi dicevo, occupa tutte le pagine 2 e 3 del Corriere della Sera. Chiede Aldo Cazzullo: sui nuovi contratti a tempo indeterminato avete fatto una magra figura. Ricorderete che questa settimana la cifra inizialmente annunciata per oltre 600.000 nuovi contratti è stata dimezzata, e nessuno ha ancora spiegato bene perché sia successo questo pasticcio sui numeri. E chiede Cazzullo: cosa ha detto al ministro Poletti quando per sbaglio ne ha raddoppiato il numero? Risponde Renzi: non gli ho detto nulla io, ma avrei voluto essere una mosca per sentire quello che Poletti ha detto ai suoi, magari in slang imolese. Spero gliene abbia cantate quattro. Comunque i numeri dei contratti a tempo indeterminato sono buoni anche dopo la correzione. Gli occupati crescono, i cassaintegrati scendono, la ripresa c'è. Non è la prima volta che si fa confusione sui numeri, spero sia l'ultima. E sull'altro tema un po' scottante, che è quello delle divisioni interne al partito, questa settimana abbiamo parlato degli attacchi lanciati da D'Alema al Festival dell'Unità di Milano contro il PD di Renzi. Chiede Cazzullo: D'Alema è appena tornato alla carica, Bersani l'aveva fatto nel giorno delle amministrative, non sarebbe meglio per tutti una scissione nel PD piuttosto che continuare con uno scontro infinito? E Renzi risponde: non credo che D'Alema e Bersani preparino una scissione, credo si stiano preparando al congresso del 2017 per candidare Letta contro di lei, non mi risulta, magari lei ha informazioni migliori. E poi c'è anche una domanda sulle unioni civili, perché Renzi ha ribadito che vuole assolutamente fare questa riforma, appunto introdurre in Italia, uno dei pochi paesi che ancora non le ha, una legge sulle unioni civili. La Chiesa però, tramite il cardinale Bagnasco della CEI, ha detto di non essere d'accordo, e quindi la domanda di Aldo Cazzullo. Bagnasco si è espresso contro le unioni civili e Renzi risponde: le unioni civili si faranno, punto. Anche qui usciamo da 20 anni di scontri ideologici, anche qui ci sono i numeri per una forzatura, ma spero di trovare un punto d'intesa ampio. La prima pagina della Repubblica, dedicata invece all'immigrazione, i tir della vergogna, e poi la notizia che è arrivata ieri dall'ONU: subito, attenzione, subito summit mondiale. Questo subito per l'ONU vuol dire il 30 settembre. C'è naturalmente tutta la cronaca con gli altri ritrovamenti ieri di tre bambini gravi, sempre all'interno di un camion che cercava di trasportare questi clandestini, e altri episodi di cronaca dagli altri fronti caldi dell'immigrazione. Vi segnalo dalle pagine interne della Repubblica, pagina 7, un bel racconto di Anna Lombardi, che è andata a trovare Abdullah Alim Attar, un profugo siriano che è riuscito, pubblicando delle foto su internet, a innescare una raccolta di fondi. In questo momento lui si trova a Beirut, dove vende di tutto, dalle penne a qualsiasi altra cosa, per raccogliere fondi per portare la famiglia e soprattutto i suoi figli, a farli uscire dalla Siria. E quindi Anna Lombardi ci racconta la sua storia: l'uomo delle penne salvato dal web, che le ha raccontato: ora aiuterò tutti i bambini in fuga dalla guerra. La raccolta di fondi per questo profugo è arrivata a $126,000 e lui dice: li userò anche per costruire delle scuole. La Stampa apre sulla vicenda di Roma, di Ignazio Marino in particolare, il sindaco che, sapete, è ancora in vacanza, dovrebbe tornare il 2 settembre, anche se per domani è convocato un grande vertice straordinario sul Giubileo, al quale evidentemente quindi non parteciperà. Fabio Martini, e questo racconto lo trovate a pagina 3 della Stampa, ha raccolto in qualche modo, sia parlando con i collaboratori di Marino che si trovano a Roma, sia guardando l'attività di Marino sul web, molto attivo sul web, sui social network, e ha raccolto quello che potrebbe essere appunto il parere. Non è una vera e propria intervista, ma quello che secondo Fabio Martini è l'atteggiamento attuale del sindaco. Quindi la verità di Marino: nessun tandem col prefetto. Per esempio sull'assenteismo, scrive Fabio Martini, Marino è stato accusato di nuovo, stavolta di assenteismo, per essere restato negli Stati Uniti mentre il Consiglio dei Ministri decideva sia le misure per il Giubileo sia le contromisure sull'infiltrazione mafiosa del Campidoglio. In questo caso i collaboratori di Marino lo hanno sentito più irritato. Ma vi sembra che fosse opportuno che io tornassi proprio mentre si assumeva una decisione così delicata? Non ho voluto che il mio rientro venisse inteso come una pressione indiretta, e comunque prima di partire avevo informato il governo e poi ho seguito la vicenda minuto per minuto, chiuse le virgolette di questa presunta autodifesa di Marino. E conclude Fabio Martini: e comunque Marino in questi giorni non ha rinunciato a una delle sue battute, aperte virgolette, in vacanza ci sarei andato prima per scioglimento del comune se a suo tempo avessi ascoltato quel che mi proponeva il vecchio PD, Mirko Coratti vice sindaco e Luca Odevaine comandante dei vigili urbani. E ci ricorda Fabio Martini: questi due nomi sono due degli imputati eccellenti di mafia capitale. Quindi Marino non fa un passo indietro, continua a sostenere che va tutto bene. Vedremo quando tornerà il 2 settembre. Il Messaggero ha un'apertura ancora diversa, che tocca un tema di cui ci siamo occupati per varie ipotesi che sono apparse sui giornali nei giorni scorsi, che è quello della possibilità di andare in pensione anticipatamente. Ma con che costi? È una delle misure che potrebbe essere introdotta nella legge di stabilità, nella finanziaria, quando si comincerà a studiarla seriamente e poi la si dovrà approvare al rientro del Parlamento. Secondo il Messaggero, il piano del Ministero prevede un assegno decurtato fino al 30% per chi sceglie la flessibilità in uscita. Ci sono anche altre anticipazioni del Messaggero sulla legge di stabilità. Per quanto riguarda le privatizzazioni, il governo starebbe accelerando su Enave Poste, però resta il nodo delle FS. L'obiettivo comunque di queste privatizzazioni sarebbe di incassare 11 miliardi. L'Avvenire dedica l'apertura a quelle che vengono definite le atrocità dell'IS, dello Stato Islamico, dell'Islamic State. In Siria sono state trovate le prove dell'uso di armi chimiche e pensate, sono oltre 3.000 le esecuzioni in 14 mesi di califfato. Nella città contesa di Kobane c'è però un nuovo modello di convivenza che ci racconta appunto L'Avvenire a pagina 5, che in fondo sfida lo Stato Islamico. E intanto ci sono stati ieri i primi raid dei caccia turchi contro i jihadisti, perché sapete che la Turchia è il paese su cui la coalizione occidentale che vuole combattere lo Stato Islamico fa affidamento, anche per una questione proprio geografica di vicinanza. Anche oggi un bellissimo editoriale di Avvenire sull'immigrazione, non utopia ma politica, di Paolo Borgna. Ve ne leggo una parte. Da un lato abbiamo il messaggio universalistico che la Chiesa di Papa Francesco predica con ammirabile coerenza e vigore, il dovere di ospitalità. Dall'altro lato c'è la consapevolezza che proprio per rendere concreto il messaggio universalistico, di quelle politiche abbiamo terribilmente bisogno, politiche di accoglienza. Perché come tutti i beni comuni, l'accoglienza è fragile e facilmente aggredibile, e come l'acqua, bene prezioso per eccellenza, ha bisogno di essere rispettata e al contempo incanalata, governata con pazienza e intelligenza, perché nessuno la veda come nemico. Questo governo spetta alla politica. Ultima prima pagina che vi segnalo prima della pausa per il traffico: l'Unità, la clessidra di Ban Ki-moon, segretario generale dell'ONU, e l'Unità sottolinea, secondo me molto giustamente, questa convocazione di un vertice. Però ieri era il 28 di agosto, il vertice è stato convocato per il 30 settembre. Il mondo è atterrito dalle stragi di migranti, l'ONU si convoca ma fra 30 giorni. E vi lascio però per le informazioni per il traffico, ci ritroviamo subito dopo. Monge, il cibo naturale per cani e gatti con tanta carne fresca, senza coloranti o conservanti. Vi presenta In Primo Piano. Ancora buongiorno, buona domenica da Giulia Crivelli. Eravamo sulle prime pagine dei giornali. Il giornale titola Treni blindati. Ieri c'è stato un vertice a Parigi in cui si sono decise alcune misure che saranno a livello europeo per aumentare la sicurezza sui treni dopo il tentato attentato della scorsa settimana. Sicuramente ci saranno i biglietti nominali e quindi probabilmente aumenteranno anche un pochino i tempi per i controlli prima di salire sul treno. Quindi in tutta Europa biglietti nominativi e controllo dei bagagli. La prima pagina di Libero: così si puniscono gli scafisti. Il riferimento è a questa gogna pubblica a cui sono stati sottoposti 3 scafisti ieri in Libia. I responsabili del naufragio, costato la vita a decine di bambini, sono stati esposti alla rabbia popolare con le foto delle loro vittime. Scrive Libero: in Italia giochiamo agli indignati, ma è in carcere solo il 10% dei trafficanti di uomini catturati. Il Manifesto titola, pubblicando una foto con alcuni immigrati, si vede chiaramente in attesa, probabilmente dietro a una, è un po' sfocata quella parte della foto, ma dietro a una barriera in attesa probabilmente di iniziare le procedure di identificazione, sono appena sbarcati. Il titolo Reality: non si ferma l'esodo dei profughi, ieri in più di 600 sono sbarcati a Messina con una vittima a bordo. In Grecia invece c'è stato uno scontro a fuoco tra la guardia costiera e gli yacht, e uno yacht carico di migranti. È stato ucciso un quindicenne, mentre l'Ungheria del muro di filo spinato processa i presunti trafficanti dietro la strage austriaca. E intanto però un altro tir fermato al confine tedesco, dove c'erano quei 3 bambini di cui abbiamo detto anche prima. Passiamo alle pagine interne e poi ai supplementi culturali. Torniamo un attimo sul Sole 24 Ore. Vi dicevo a pagina 5 l'approfondimento: borse mondiali al test di Cina e volatilità, per cercare di così capire che cosa potrebbe succedere settimana prossima. Ma soprattutto un interessante articolo di Vittorio Carlini che ci svela un po' come funzionano in realtà le borse. Una volta c'erano le grida, abbiamo ancora le immagini di quei parterre, di quelle piazze appunto delle borse, dove ci sono i trader che con le loro cuffie urlano ordini. In realtà moltissima attività di trading viene fatta in modo completamente elettronico, e qui ci racconta Vittorio Carlini appunto quei software padroni dei listini. Il 65% degli scambi è deciso dai robot. Tra volatilità, trading automatico e i cosiddetti flash boys, come cambia la struttura dei mercati? A Wall Street 2/3 delle contrattazioni sono determinate dagli algoritmi. In Europa il totale è del 42%, quindi un po' più basso, ma comunque anche in Europa il fenomeno è molto importante. Dalla prima pagina di Imprese e Territori, per parlare di economia reale, un articolo di Giorgio Dell'Orefi che ci racconta come per il vino sia stata un'annata da incorniciare. Cotarella, che è presidente di Assoenologi: dobbiamo sfruttare l'onda lunga di Expo e concentrarci sull'Asia. La vendemmia si annuncia in crescita e di ottima qualità, tra le regioni guida il Veneto, ma c'è anche un balzo di Puglia e Campania. Passiamo alle pagine appunto culturali, ci sono anche tante altre articoli interessanti sui quotidiani di oggi, però appunto la domenica forse si ha un po' più voglia e tempo di evadere. Allora cominciamo naturalmente dal Sole 24 Ore, dalla domenica del Sole 24 Ore, con il breviario di Gianfranco Ravasi, che oggi parte da una piccola citazione di Beppe Severgnini ed è intitolato La spremuta. La sintesi è una spremuta di pensiero, fa bene alla salute mentale, aiuta a capire e a far capire. È una piccola citazione tratta da un libro di Severgnini, La vita è un viaggio. Partirò da un'autocritica, dice Ravasi. Anni fa scrissi un commentario esegetico al Cantico dei Cantici, lo stupendo poemetto biblico d'amore, composto di sole 1250 parole ebraiche, e io per spiegarle coprii quasi 1000 pagine. La potenza della poesia è tutta qui, dire persino l'infinito e l'eterno in un modesto lemma lessicale o in un verso. Ha perciò ragione Beppe Severgnini, con l'incisività che noi suoi lettori amiamo e che ha invitato coloro che scrivono, ma anche chi parla, a tenere sempre a portata di mano un decespugliatore che tagli ridondanze, vaniloqui, oscurità saccenti. Certo, l'analisi è necessaria, ma la sua meta dovrebbe essere la sintesi. Cervantes, in un suo scritto minore, ammoniva: non c'è buon ragionamento che sembri tale quando è troppo lungo. La copertina però è dedicata a Andrea Camilleri, che il 6 settembre compie 90 anni, quindi un pezzo da 90, e Salvatore Silvano Nigro ce lo racconta. Tutto iniziò con il risvolto di Sciascia, La strage dimenticata, in cui Camilleri disseppelliva un episodio di martiri risorgimentali dalla tomba della storia ufficiale. Era il 1984. Per i suoi 90 anni il mondo intero lo festeggia. In particolare i lettori della Domenica del Sole 24 Ore sono invitati a mandare i loro auguri all'account Twitter @24domenica, e i migliori auguri verranno poi pubblicati domenica prossima. La rubrica Memorandum del direttore Roberto Napoletano, dedicata agli imprenditori di Arezzo. Arezzo è stato una volta uno dei distretti più importanti al mondo per la lavorazione dell'oro, ha avuto un momento di crisi, ora si sta riprendendo, e Roberto Napoletano ce lo racconta come sempre raccontando l'esperienza diretta di alcuni imprenditori e persone che vivono ad Arezzo, la crisi e la bellezza della città dell'oro. Un'altra, proposito di recensioni di libri nuovi, invece a pagina 19 trovate la recensione di Armando Massarenti sul nuovo libro di Maurizio Maggiani, Il romanzo della nazione, che è appena uscito, pubblicato da Feltrinelli. Il titolo della recensione è molto positiva, è La nazione che non c'è. Maggiani ha scritto uno splendido romanzo di struggente, ironica nostalgia per un'Italia piena di veri fondatori e mai davvero fondata. E un'altra recensione importante è una mostra che si è aperta questa settimana, ma durerà parecchi mesi, ma che è veramente di proporzioni grandissime, a Palazzo Reale a Milano, si chiama La grande madre, Grandi mamme da paura, la recensione di Angela Vettese. La lettura del Corriere della Sera, come sempre la copertina è affidata a un artista, oggi è Jeffrey Steele, un artista britannico. Dall'interno vi segnalo una storia che trovo bellissima di un italiano, Luca Centurioni, che ha 50 anni, vive a San Diego. Il suo mestiere è quello di monitorare le boe, quindi il titolo di questa storia è Seminare boe nell'oceano porta frutti. Un italiano monitora da San Diego i sensori di 1394 galleggianti. Perché lo fa? Prevedo i tornado, studio le correnti, ora mi dedicherò a Napoli. E anche la lettura rende omaggio a Camilleri e a Montalbano con un articolo di Cristina Taglietti, Due Montalbano prima dei pasti, la terapia Camilleri per superare il blocco della lettura. Concentrarsi sulla parola distoglie dai dubbi di comprensione. E l'esperienza, in realtà Cristina Taglietti in questo curioso articolo ci racconta l'esperienza della psicoterapeuta Loretta Salvati, che con 20 pazienti che soffrono di disturbi ossessivo-compulsivi appunto ha applicato questa terapia Camilleri. E poi un altro bel reportage, questa volta di Maria Serena Natale da Bruxelles, su una mostra dedicata alle api e alle farfalle, che vengono definite sul trono del Belgio con le loro vite elegantissime. Sono in generale api e farfalle, ma anche tanti altri insetti, sono sopravvissuti ai dinosauri. L'esemplare più antico ha 365 milioni di anni, offrono simboli e suggestioni a ogni civiltà e cultura. A questi animali Bruxelles dedica un'esposizione a più livelli. E poi sulla lettura anche 4 pagine di reportage con questo testo raccolto a Londra da Lorenzo Cremonesi, che ci racconta proprio l'odissea di un migrante. 2 mesi e mezzo in fuga, il diario di Ahmed, curdo, 25 anni, attraverso Iraq, Siria, Turchia, Grecia, Francia, Nord Europa, fino al sogno, l'Inghilterra. E proprio ci sono anche alcune foto di Ahmed e il percorso che ha fatto. Cult della Repubblica, il supplemento della domenica, copertina dedicata a Keith Richards dei Rolling Stones, che tra l'altro è richiamato anche sulla prima pagina della Repubblica. Keith Richards, perché il rock è meglio del sesso, un lunghissimo articolo di Giuseppe Videtti, un po' il virgolettato scelto per darci il gusto dell'intervista. Non vedevo prospettive quando pensavo al futuro, finché non ascoltai Muddy Waters e tutti gli altri. Quindi va molto indietro nel tempo, ci racconta com'è nata la sua passione per la musica, come ha deciso di diventare un musicista, poi naturalmente l'incontro con Mick Jagger e la fondazione dei Rolling Stones. Della serie per le interviste Straparlando di Antonio Gnoli, quelle su 2 pagine ampie corredate dai bellissimi ritratti di Riccardo Mannelli, oggi l'intervistato è Luigi Zoia, uno psicanalista diplomato allo Jung Institute di Zurigo, che racconta un po' come vede la sua professione, ma anche il tempo e come ha visto cambiare anche la società. Siamo vittime di noia e paranoia, non viviamo più di miti universali. La laurea in economia, tra l'altro questo appunto Luigi Zoia è laureato in economia, poi ha scoperto quella che viene definita la passione per la psiche, ha scoperto Jung, un lungo rapporto con James Hillman, uno dei più famosi psichiatri contemporanei americani e psicanalisti e anche psicoterapeuti. Lo scopo del mio lavoro è la ricerca del senso. La prima pagina invece di Radar, il supplemento culturale dell'Unità, dedicata a Primo Levi, perché allo scrittore partigiano deportato dai nazisti il saggista Marco Belpoliti ha dedicato un'opera di oltre 700 pagine, la summa di un pensiero eclettico, l'omaggio a un genio comune. E invece la copertina di Alias del Manifesto è dedicato a un libro sul genocidio degli armeni. A 100 anni dalla sistemica strage attuata tra il 1915 e il 1916 nelle terre della Cilicia e dell'Anatolia, il saggio di Marcello Flores sul genocidio degli armeni, pubblicato dal Mulino, ricostruisce verità storiche ancora negate. Macro invece del Messaggero, il supplemento del Messaggero, i festival più pazzi del mondo. Nel deserto del Nevada inizia Burning Man, questo festival appunto, ma gli amanti dell'utopia possono scegliere anche tra città di ghiaccio e stati mobili sul Mar Nero. Quindi le curiosità anche magari per chi non ha tempo di andarci, però sapere che esistono queste stranezze in tanti angoli del pianeta. Era l'ultima segnalazione per oggi, io vi auguro una serenissima domenica, ringrazio Peter Bescapè in regia, vi ricordo che domani torna Alessandro Milan per la rassegna stampa e per tutta la sua trasmissione del mattino. Noi invece ci risentiremo ancora il prossimo weekend per le rassegne con i quotidiani italiani. Ancora buona domenica da Giulia Crivelli.